21 ottobre 2025. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è Radio Onda Rossa e questa è Nota Casa Città. Iniziamo un quarto d'ora prima del previsto, sarà così almeno fino a, boh, non lo so, comunque adesso è così, quindi ricominciamo alle 20, chi ci ascolta da quando iniziamo la nostra trasmissione del 2017 sa che noi andavamo già in onda alle 20, poi il palinsesto si è un po' modificato, abbiamo fatto un limbo alle 8:15, torniamo al nostro orario iniziale anche per permettere al buon Semiglia di cominciare in tempo. Buonasera Fabio. Ciao a tutti, ciao Ale. Allora, ho detto che stiamo su Radio Onda Rossa 0649 0750 www.ondarossa.info e ho detto sostenete la radio, mi pare, no? Sì. Mi sembra che avevo detto esattamente tutto quanto. Quindi, allora, oggi è il 21 ottobre e direi che i tempi sono maturi per fare una puntata su rullo di tamburi. È difficile da sintetizzare. In sostanza abbiamo una scaletta di 12 pezzi, ogni pezzo rappresenta un mese. Ogni pezzo è dedicato a un mese, perché l'abbiamo fatto in questo... Perché? Beh, forse perché non avevamo troppe idee. Ma no. In parte anche perché spulciando così e trovando spunti delle puntate abbiamo trovato un fatto curioso che ci ha dato appunto là per questa puntata, cioè a ottobre del 1582, il 15 ottobre se non vado errato, entrava in vigore il calendario gregoriano che ancora oggi è usato praticamente in tutto il mondo. Appunto, questo per noi è stato il pretesto per ascoltare 12 belle canzoni. Questo in fondo è quello che conta. E raccontami come hai fatto in macchina e cosa stavi facendo il 6 ottobre del 1582. No, il 6 ottobre è il giorno, no, questa è la curiosità, se abbiamo capito bene, ci ricordiamo bene, per apparare, diciamo così, il calendario con l'equinozio, il solstizio, gli equinozi, i solstizi che c'erano durante l'anno, praticamente dal 4 al 15 ottobre del 1582, appunto sono giorni che non sono mai esistiti. Ecco. Cioè dal 4 si è passato direttamente al 5, quando sarebbe dovuto essere il 16, se non vado errato. No. Ma diciamo, prendiamola per buono e diciamo che è entrato in vigore il calendario gregoriano e che noi qualche secolo dopo ci prendiamo spunto. Allora, per oggi puntata, mi raccomando, socio, presentazioni brevi, perché se riusciamo a fare iniziare tardi pure Semiglia iniziando alle 8 vuol dire che siamo noi. Ah, guarda, è finita. Ce la potremmo anche fare, però. È finita la sigla proprio in concomitanza con l'inizio del primo brano. Senti qua, perché una cosa che è fondamentale dire, abbiamo deciso anche di partire non da gennaio ma dal mese corrente, quindi da ottobre. Ottobre, cosa dire di ottobre? 31 giorni, lo sapevi? Certo. Allora, mese autunnale nell'emisfero boreale e primaverile in quello australe. Poi altre cose importanti, che se sposta l'orologio un'ora indietro, che la settimana prossima sì, rientriamo di nuovo nell'ora solare, se dorme un'ora in più, ma è soltanto un'apparenza, perché poi il sistema e il capitalismo comunque ci avvolgerà. Alle 4 di pomeriggio sarà buio. Esatto. 4 giorni fa buio. E comunque, segni zodiacali, Bilancia e Scorpione. E tra i santi del mese, questa voglio dirtelo perché esce subito un pezzo da 90, una superstar del calendario. Quindi orgoglioso. Vabbè, San Francesco. Orgoglioso di averlo nel mio roster. Ovvero San Francesco, che dal prossimo anno, 4 ottobre, diventerà festa nazionale. Quindi tutti c'è i fan. Pure Santa Chiara, però, attenzione. Vabbè, ma mi potevo mettere a fare tutti i santi. No, c'è stata una polemica con Mattarella. Adesso non ho capito però, bene. Ma per i fan di San Francesco, insomma, c'è qualche prossimo conflitto tra santi. Penso che già lo avreste saputo. Comunque apriamo invece la nostra puntata con la musica, con i Client Hill e col loro sound così autunnale, un po' malinconico, un po' crepuscolare. Il disco che tra l'altro uscì non a caso in ottobre del 2009 per la Merge Records e si chiamava Bonfires of the Health, è il quinto disco della band londinese. Fu definito da AllMusic il più perfetto autunnale disco pop inglese che si possa immaginare. E la title track è già una dichiarazione di intenti, visto che ci dice chiaramente che siamo a ottobre, che la luce del sole filtra nel bosco e che sta per entrare, anzi uscire, dalle vostre radioline, perché comincia con ottobre la nostra puntata sul calendario a Nota Casa Città. The Client Hill, Bonfires of the Health. Bello Reno del Client Hill, il brano nella pronuncia corretta era Bonfires on the Hit, prima non so che confusione ho fatto. Comunque ti posso dire, a me dammi una baita, un camino, delle castagne, un disco dei Client Hill e io ci vivrei. Guarda, su tutto io ho ragione, un po' meno sulle castagne, ma questo ne parliamo in privato, no? Ogni anno mi chiede la stessa cosa, perché forse ogni anno va la battuta delle castagne, sì, non le amo. No, non forse nella birra, forse in una vellutata, ma mangiate così assolute, no, anche no. Comunque eravamo a Londra, eravamo in Inghilterra, ci spostiamo, ce ne andiamo in North Carolina, precisamente nel campus universitario di Asheville. Che mese dove... devi fare? Novembre, dopo ottobre. Allora metto la bandana, novembre rain, no? Novembre rain, assolutamente. Quanti giorni c'ha novembre? 30. Bravissimo. Quindi dicevo, ma tu andiamo. Sei da Nocca o sì. Da canzoncina? No, la canzoncina va imparata. Ah, ok. Nocca, e voi te lo spiego come si fa. No, devi battere due volte luglio, so, agosto, no, e torni indietro. Comunque adesso ci staranno prendendo per due deficienti che hanno ascolto. Comunque dicevo, battuta a parte, North Carolina, Asheville, e qui che nascono. Nasce il prossimo gruppo in scaletta, sono i Wednesday, che tra parentesi abbiamo passato un paio di settimane fa, perché hanno da poco dato alle stampe un disco, insomma, che meriterà, Blitz, se non vado errato. E il gruppo nasce su l'ideatrice, diciamo, del progetto, la cantautrice e chitarrista Carly Arsman. Lei qui appunto nel campus universitario di Asheville conosce nel 2018 Daniel Goran, insieme iniziano a comporre e suonare e partono dalle loro passioni in comune, scoprono di avere un gruppo, in particolare un album. L'album si intitola Reading, Writing and Arithmetic, il gruppo si chiama Sundays. Ecco, proprio dal nome di questa band prendono spunto per il loro nome, che appunto è Mercoledì, ma al contrario della band di Harriet Wheeler, che parlava di domeniche pomeriggio in mondi assolati, diciamo così, i mercoledì del North Carolina sono decisamente più brevi, più bui e più freddi. Dopo un primo album di fatto autoprodotto e un paio di EP, la band dalle stampe I Was Trying to Describe You to Someone, e il primo singolo estratto da quello che in sostanza è il primo vero album della band e in qualche modo anche il primo successo del gruppo, è November. E quindi arriviamo alla canzone che stiamo per passare. La canzone descrive una notte buia e inquieta di novembre, in cui la cantante cammina in una casa vuota provando un senso di solitudine, di tristezza. Novembre è spesso associato a questi sentimenti. Sto spiegando in parte il testo, diciamo così: le finestre, la luce esterna dei lampioni accentuano la sua sensazione di inquietudine, c'è anche una sensazione di disagio fisico dettato dalla temperatura, perché l'aria è così densa e fredda che canta le fa sanguinare il naso. La cantante sembra rivolgersi al mese stesso come se fosse una persona, ma insomma il testo suggerisce, lo stiamo spiegando, che novembre è un periodo di oscurità e di inquietudine, ma anche di amore e di speranza, perché in qualche modo c'è anche una storia d'amore tra le righe di questa canzone, perché dice: nulla scalda più del modo con cui tu, cioè un lui, ti aggiri nel mio cuore, e basta, diciamo. Ma non c'è neanche una solo di slash? Non c'è una solo di slash. Vabbè, dai. Ma c'è la voce, c'è un solo di MJ Lenderman, che non sarà slash, ma forse qualcosa ha da dire. Loro sono in Wednesday, questa è in November. November Wednesday, ma ti posso dire, dammi una baia, un camino delle castagne, un disco delle Wednesday, io e io ci sto. Ma che siamo arrivati già a dicembre. Siamo arrivati già di come vuole il tempo quando ci buono. Si diverte. 31 giorni dicembre, eh? Ma tu che fai con le nocche? Quali sono i mesi con 31 giorni consecutivi? Dimmi un po'. Luglio e agosto. E poi? Dai. E poi? dai. Luglio e agosto e basta. E dicembre e gennaio no? Vabbè, dicembre finisce l'anno, non è che riparto. Beh, certo, finisce il mondo, che c'entra, poi ricomincia. Comunque, dicembre, vai, 31 giorni, passaggio tra l'autunno e l'inverno, relativo solstizio, i fuori classe del mese, San Nicola e Santa Lucia, segni zodiacali, Sagittario e Capricorno, per chi segue l'astrologia. Non mi sembra che a dicembre ci siano feste particolari, vero? No, non credo. Non mi sembra proprio. Forse c'è Natale, mi sa, che arriva a dicembre, che diciamo insomma in ambito musicale accentra parecchio la maggior parte. Questa è una cosa che dovremmo raccontare, perché su alcuni mesi abbiamo penato l'inferno, su altri lo stavo proprio. Ecco, novembre è un mese ricco di canzoni dedicate a dicembre. Dicembre sì, però diciamo molto si concentra appunto sul Natale, con varie declinazioni, poi Natali. Forse avrei cercato male. Tutti disperati, per carità, ma comunque è senza dubbio il più gettonato per raccontare il mese, e poi è anche, e forse non a caso, è la cosa più utilizzata, anche una fetta di mercato importante per l'industria discografica, che ha le canzoni dedicate, remix natalizi, brani, album che negli anni poi sono stati associati al Natale, e i remix, vabbè, insomma un sacco di roba, compilation eccetera eccetera. Quindi abbiamo cercato un attimo di uscire da questa narrazione del Natale, ci è venuta in soccorso una bellissima canzone di Norah Jones contenuta su The Falls, anche questo come client il disco del 2009, e all'interno del quale l'artista newyorkese invoca l'arrivo di dicembre come un mese che la rende particolarmente felice, gioca anche probabilmente col doppio senso dell'arrivo di dicembre come il ritorno di un amore, perché nei mesi precedenti l'uscita del disco lei aveva finito una lunghissima storia d'amore con Lee Alexander, il suo bassista. Ah, tu vai proprio su nomi e cognomi. Assolutamente sì, faccio i nomi dell'album, negli album della Jones. La relazione è durata 8 anni, quindi lei, a quanto ho capito, c'era rimasta abbastanza traumatizzata. Tra l'altro ti do uno scoop, Lee Alexander, che sembra stato visto in vacanza con California dei Coma Cose. December, Norah Jones. See you. happiest place I have known. E questo era il dicembre di Norah Jones. E noi scavalliamo. E dopo dicembre scavalliamo, ce ne andiamo a gennaio. Il mondo non si ferma. Il mondo non si ferma, restiamo negli Stati Uniti. La prossima canzone si intitola January Hymn, è tratta da King is Dead, il sesto album del gruppo folk rock statunitense The Decemberists. E questo mi ha mandato un po' al manicomio, per questo mi confondevo tra dicembre e gennaio, perché la canzone di gennaio, appunto, abbiamo scelto un gruppo che si chiama The Decemberists e questo mi ha mandato abbastanza in confusione. Comunque l'album dei King is Dead è stato pubblicato nel 2011 e la canzone, come in parte tutto l'album, è stata ispirata dal primo gennaio. Il cantante del gruppo Colin Meloy e la sua famiglia hanno trascorso nella loro nuova casa, all'epoca nuova, nei boschi dell'Oregon, quando l'inverno portò oltre un metro di neve. Mi sono andato a cercare qualche intervista dell'epoca, quando insomma presentava l'album, e racconta: siamo rimasti bloccati per 10 giorni senza linea internet, senza poter smaltire la spazzatura né ricevere posta. È stato fantastico. La canzone parla semplicemente di spalare la neve, inclusa tutta quella che ho spalato da bambino in Montana. In realtà la canzone non parla soltanto di spalare la neve, c'è molto di più. È anche una canzone sul ciclo delle stagioni e su come d'inverno si desideri il ritorno della primavera. Nel testo infatti è citato il mese di aprile, poi ci arriveremo. Aprile è uno dei mesi più scelti dagli artisti per, insomma, tantissime canzoni sono dedicate al mese di aprile, e non è casuale, è il mese che porta la primavera, e anche lui parla di quello. Sì, però non mi blastare, parla... tutto quello che dico, parla del tuo mese, attieniti ai fatti. È lui che cita aprile e dice, appunto, il mese che porta la primavera e che sembra lontana un oceano. Nella stessa canzone anche qua ti brucia un altro tuo mese. C'è una canzone che si intitola January Hymn, c'è un'altra canzone che si intitola June Hymn. La canzone in questo caso racconta dell'arrivo dell'estate, e sempre nella stessa intervista racconta: sembra così banale, ma si tratta semplicemente di stare seduti lì fuori, e si sta riferendo alla finestra, alla vista verde sui boschi che ha un po' come casa tua, no? Sì. Credo di essermi legato a questa zona proprio uscendo dall'inverno, vedendo come l'ambiente cambiava mese dopo mese. Imparavo di più su ciò che mi circondava semplicemente osservando e assistendo a ciò che accade nel corso delle stagioni. Prima di farvela ascoltare, una curiosità: c'è un verso della canzone e la relativa melodia che l'accompagna, che è un chiaro omaggio a Tambourine Man di Bob Dylan, ve ne accorgerete ascoltandola. C'è anche un altro verso, anche in un altro verso viene citato Dylan, cioè viene rubata un'immagine che Dylan utilizza in One of Us Must Know, e anche il modo di suonare la chitarra, e qua forse rompiamo un po' troppo le scatole, comunque il modo, non ho capito, e questa armonica no? No, ma c'è proprio un modo di suonare la chitarra di Meloy che è proprio un pastiche, come si dice, dello stile flat picking che Dylan ha utilizzato nel suo triennio, quello insomma abbastanza mitologico, del 60, dal 63 al 66. Però basta con queste curiosità, noi ci ascoltiamo i Decemberists, questa è January Hymn. To clear away the snow and green the ground below. April all an ocean away. Is this the better way to spend the day? Keeping the winter at bay. What were the words I meant to say before you left? When I could see your breath leap where you were going to. Maybe I should just let it be. And maybe it will all come back to me. Sing, oh, January, oh. and all my chains and tolls stuffed in strata of woe. Pale the winter days after dark, wandering the gray memorial park, a fleeting beating of hearts. What were the words I meant to say before she left, when I could see her breath lead where she was going to? Maybe I should just let it be, and maybe it will all come back to me. Sing, oh, Janu. Oh, Janu. The Decemberist a Radio Onda Rossa, Note Cose Città, puntata dedicata al calendario. Siamo partiti da ottobre, siamo arrivati a dicembre. Chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, da questa settimana cominciamo alle 8 a trasmettere, quindi siamo già nel cuore della nostra trasmissione. E già in ritardo pure. E già in ritardo. Come si traduce i Decemberist? I dicembrini? Intraducibile. Quelli di dicembre. Ma non è legato, insomma, non è proprio esattamente così, credo. Adesso no, farei una brutta figura, quindi dicembristi comunque. I dicembristi, perfetto. Allora, siamo arrivati quindi con i dicembristi che ci hanno cantato gennaio. Siamo arrivati al mese di febbraio, e qua Fabio l'aveva anticipato, perché tra tutti i mesi dell'anno quello forse che meno ispira musicisti, musiciste e band è febbraio, probabilmente. No, insieme a marzo. Lascia un attimo, non mi mettere fretta. Il mese più corto dell'anno, 28 giorni, mentre sarà bisestile nel, Fabio? Nel 2026. No, 2028. Davvero? Sì, 2028. È ogni 4 anni, l'ultimo è stato 2024, quindi. È il mese solitamente legato al carnevale, che però c'ha tutto il suo genere musicale, cioè, nel senso, proprio una fetta di mercato che si occupa solo del carnevale, quindi quando si racconta febbraio è tosta. Come marzo è altrettanto instabile e incerto meteorologicamente. È anche il mese di Sanremo, però. È anche il mese di Sanremo, però paga purtroppo una, boh, probabilmente un peggior ufficio stampa rispetto a marzo, che anche grazie al detto marzo pazzerello, guarda il sole, prendi l'ombrello, ha praticamente basato tutto il successo tra il grande pubblico. Febbraio, però, tra le canzoni a lui e dedicate, che non sono tantissime, lo ripeto, ci ha regalato anche quella che forse è la prima che ci è venuta in mente, però alla fine è anche quella che ci ha convinto di più. Perché non passare i Foo Fighters? Il brano è ovviamente February Stars, contenuta su The Color of the Shape. È una canzone, come disse Dave Grohl, sul sapere aggrapparsi alla vita con la punta delle dita, sperando di non scivolare e cadere. Era in qualche modo legata, anzi, al concetto di separazione, perché all'epoca della scrittura del brano Grohl aveva affrontato un divorzio, ma il testo potrebbe, secondo qualcuno, anche tranquillamente adattarsi a Kurt Cobain, nato. Sì, al povero De Grohl qualsiasi canzone scrive, insomma, diciamo, parla di Cobain. Collano Kurt Cobain, comunque dicono i complottisti che, perché guarda caso Cobain è nato il 20 febbraio e scomparso comunque 3 anni prima dell'uscita del disco. Noi, insomma, lo sa solo Dave Grohl. Noi sappiamo che February Star è un grandissimo pezzo per rappresentare febbraio qui su Radio Onda Rossa. Hanging on here until I'm gone, right where I belong, just hanging on. Come and go. How I loro erano i Foo Fighters, questa era February Stars, e come diceva lei prima, è stato faticoso trovare canzoni dedicate a febbraio, e mi permetto, forse ancora più faticoso, trovare canzoni dedicate a marzo. In entrambi i casi abbiamo scelto la via, ed è l'unica eccezione durante questa scaletta, la via più semplice. Non abbiamo trovato nulla di meglio che raccontare marzo con Acqua, la riconoscerete già in sottofondo, con Aguas de Marzo. Per chi non la conoscesse, è un brano di Bossa Nova composto da Antonio Carlos Jobim nel 1972. Lo stesso Jobim ha scritto il testo, e l'ha scritto sia in portoghese che in inglese. La canzone fu composta mentre il musicista brasiliano era nella fazenda di famiglia. Un lungo e violento temporale aveva trasformato strade e terreni in fango, e quindi, bloccato lì durante una inattività forzata, aveva decise di scrivere un brano le cui parole richiamassero immagini di vita quotidiane delle campagne brasiliane. Lo diceva anche questo prima Ale, ma per sicurezza bisogna forse sottolinearlo: nell'emisfero australe le stagioni sono al contrario rispetto alle nostre, quindi le piogge di marzo sono quelle che segnano la fine dell'estate, che spesso e volentieri sono, insomma, fenomeni atmosferici, meteorologici, anzi scusate, importanti. Nel 2001 la canzone è stata votata da un gruppo di giornalisti, musicisti e di altri artisti brasiliani come la migliore canzone brasiliana di tutti i tempi, e anche Rolling Stone nella sua edizione brasiliana, Rolling Stone lo sapete, no? Si diverte a fare le 100 migliori canzoni italiane, brasiliane, francesi, inglesi, eccetera eccetera, migliori di tutti i tempi. Nella classifica del mensile musicale la canzone è arrivata seconda, si è piazzata, lo dico per curiosità, dietro Construção di Chico Buarque, insomma. Quindi insomma nulla da dire. E il brano, scritto nel 72, è stato pubblicato nello stesso anno da Jobim, però in un album non suo. L'album si intitolava Disco de Bolso di João Bosco, ed era un album venduto come allegato di un quotidiano di Rio de Janeiro, quindi immagino che chi abbia la prima stampa, insomma, che abbia quel vinile lì, penso che sia un piccolo patrimonio. Nello stesso anno però l'ha incluso in un suo album che si chiama Matita Per, e 2 anni dopo la canzone ha trovato posto nell'album Eris e Tom, registrato a Los Angeles, in cui Jobim duetta con Elisa Regina, e questa è probabilmente la versione più nota e più amata. Comunque dagli anni che non è quella che stiamo ascoltando in sottofondo, no, diciamo. Quella che stiamo ascoltando in sottofondo è una, lo stavo per dire, una delle tantissime cover e interpretazioni del brano. Esistono in portoghese, in italiano, l'ha fatta Mina, in inglese, in francese. C'è appunto Mina l'ho citata, c'è João Gilberto, c'è Art Garfunkel, sto dicendo i nomi più noti. Questa che stiamo ascoltando in sottofondo e che per un momento abbiamo pensato di scegliere, molto bella e recentissima, credo sia di un paio di anni fa, e l'hanno insomma interpretata, eseguita May Simones e John Roseboro, sono due giovani musicisti e statunitensi. Lei in realtà è metà giapponese, metà statunitense, lui invece è proprio un newyorkese di Brooklyn. Lui è un bolo. Tutti e due amanti del jazz e della bossa. Noi però ci ascoltiamo la versione della canzone eseguita da David Byrne insieme alla cantautrice brasiliana Marisa Monte, e contenuta in un album di Marisa Monte che in realtà è una raccolta un po' sui generis, però non è un album di inediti. L'album è uscito nel 2016, inedita era questo duetto. L'album, lo dico per chi lo volesse cercare, questa raccolta si chiama Colesao, che credo significhi collezione, credo, raccolta, qualcosa del genere, in portoghese, oppure colazione, non lo sappiamo. La versione è certamente poco ortodossa, ma è davvero splendida. David Byrne, Marisa Monte, in Waters of Mars, Aguas de Marzo. A stick, a stone, it's the end of the road. It's a little alone, it's a sliver of glass. It's a life, it's the sun. It is night, it is death. It's a trap, it's a gun. Conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. madeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É o recato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. Burn e Marisa Monte, Waters of March. Noi stiamo in ritardo, oddio, abbiamo un margine incredibile che se cominciamo tardi oggi veramente s'ansimiglia da dove? S'ansimiglia da San Paolo. Da San Paolo. Allora, siamo arrivati a aprile, la primavera, quella che più ispira e ha ispirato poeti, musici, pittori, simbolo di rinascita, di fioritura, di speranza, fertilità, chi più ne ha più ne metta. È il mese qui da noi della liberazione, quella con la L maiuscola, cioè il pesce d'aprile, gli abbiamo dedicato una puntata, cioè il 21 aprile, compleanno di Roma, anche al compleanno di Roma durante il Covid dedichiamo una puntata. Cioè solitamente pure Pasqua, insomma nella maggior parte, giusto socio? Giusto. Sì, insomma direi aprile, no? Se amate la cioccolata. E poi arriva il segno zodiacale del toro, quindi tremate. E aprile evidentemente è un mese che ispirava anche particolarmente Fabrizio De André, perché adesso mi potrei dimenticare di qualche canzone, però senza dubbio c'è venuto Il Pescatore, c'è venuto Un Chimico, c'è venuto Caro Amore e Titti, e non so se, insomma, sicuramente ce ne saremo dimenticata qualcun'altra, e poi quella che ovviamente ci ascolteremo, che è la canzone dell'amore perduto, dove c'è questo aprile, questo amore è ormai un aprile ormai passato, la primavera è metafora di quando l'amore era al massimo del suo splendore. Non mi ci metto neanche adesso a interpretare il testo di questa canzone che conoscerete tutti e tutte, e abbiamo deciso di ascoltarcela in una versione meno nota dell'originale, ovvero quella di Colapesce, che era contenuta all'interno di una compilation in cui tanti artisti e artiste hanno fatto un omaggio a De André. Si chiamava Faber Nostrum, è uscita nel 2019 la canzone dell'amore perduto, lui è Colapesce. Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto a Bella, bellissima, anche se la cantassi tu, la canzone d'amore per me. Questo non lo so, grazie, ma bellissima, canta da Colapesce. E adesso cambiamo radicalmente atmosfere, cambiamo anche continente, da Genova, dall'Italia, ce ne andiamo in Canada nel 2010, quando l'anno di uscita di The Suburbs e l'album dei canadesi, appunto, Arcade Fire. E gli Arcade Fire in quell'anno specifico erano, diciamo, appena usciti dal mondo indie per entrare nel mainstream, e lo fecero dalla porta principale. Anche il loro sound iniziò a cambiare degli album precedenti, gli splendidi Funeral o Neon Bible sembravano album adatti quasi da suonare in chiesa, e Suburbs suona decisamente più adatto al sound di uno stadio. La canzone Month of May, appunto, arriviamo a maggio, e questo è il mese che stiamo coprendo in questo slot, l'esempio perfetto di questa mutazione della band. È un brano rock trascinante, il più aggressivo in assoluto che gli Arcade Fire abbiano mai scritto ed eseguito. Ci sarebbe potuti immaginare un maggio diverso, più rilassato, almeno così la gran parte di noi viene in mente, no? Maggio non viene in mente qualcosa di più solare, insomma, di più rilassato, l'ho detto. Il perché sia stato invece messo in musica così l'ha spiegato ai tempi dell'uscita dell'album l'autore stesso del brano, il cantante degli Arcade Fire, Wim Butler. Vivendo a Montreal, l'inverno è così duro che a maggio, quando finalmente inizia a scomparire, c'è una sensazione davvero folle nell'aria, un'energia quasi violenta. Anche il tempo diventa strano, ci sono tempeste di vento. Ieri, per esempio, c'erano 35 gradi, ma c'è stata una grandinata e il vento ha distrutto tutte le linee elettriche. Ci sono state interruzioni di corrente proprio mentre noi stavamo cercando di provare. Ecco, Month of May cerca di trasferire quella sensazione su un disco. Ce l'ascoltiamo, Arcade Fire, Month of May. One, two, three, four. Month of May, it's a violent thing. In the city, there are Month of May per Arcade Fire. Vi ricordo, questa è sempre una delle cose città, puntata sul calendario. Siamo partiti da ottobre, abbiamo appena ascoltato il mese di maggio, ci manca ancora giugno, luglio e agosto e settembre, ma dai, è tardissimo. Quindi entriamo a giugno, da amante del caldo, caro Fabio, quanti posso... giorni c'è a giugno? 30 ovviamente. Vabbè, penso alla canzoncina, a memoria. Posso partire da qualunque mese. È tardi. Comunque, si comincia a ragionare, perché qua veramente entra l'estate, le giornate sono lunghe, inizia il caldo. E quale periodo migliore, avrà pensato anche Conor Orbest dei Bright Eyes, per andarmi a fare un viaggio alla scoperta di me stesso in un lungo viaggio negli Stati Uniti occidentali. Aveva anche lui un periodo di crisi, quindi vede come soluzione quello di prendere la macchina e farsi questo bel giro tra la California, l'Arizona e quei posti lì. Da quel viaggio nasce June on the West Coast, quasi un diario dei posti che ha visto, delle sensazioni che ha provato, e l'intimità, diciamo, di questa canzone la si capisce anche dal fatto che poi è l'unico senza band di accompagnamento all'interno del disco, ma eseguito soltanto da Orbest con chitarra e voce. Tra l'altro, lo scorso anno non è stato in ottime condizioni di salute, Bright Eyes hanno annullato tutta una serie di concerti, sono tornati in questo 2025. Tra le cose belle che hanno fatto è stata anche riproporre questa June on the West Coast, che non la suonavano da quando è uscita, ovvero dal 2011, quindi se avrete modo di andarveli a vedere in un tour americano che toccherà anche quest'estate un paio di date in Europa, sicuramente faranno questa canzone che, se non conoscete, è proprio proprio bella. June on the West Coast, Bright Eyes. Drinking the sunlight of Winnetka, California, where they understand the weight of human hearts. See, sorrow gets too heavy and joy it tends to hold ya, the fear that it eventually departs. And the truth is, I've been dreaming of some tired, tranquil place where the weather won't get trapped inside my bones. And if all these years of searching find one sympathetic face, then it's there I'll plant these seeds and make my home. I spent a day dreaming of dying in Mesa, Arizona, like all the green of life had turned to ash. And I felt I was on fire with the things I could have told you. I just assumed that you eventually would ask, and I wouldn't have to bring up my so badly broken heart. And all those months I just wanted to sleep. The spring it did come slowly, I guess it did its part. My heart has thawed and continues to beat. Visited my brother on the outskirts of Olympia, where the forest and the water become one. And we talked about our childhood like a dream we were convinced of, the perfect peaceful street that we came from. And I know he heard me strumming all those sad and simple chords as I sat inside my room so long ago. And it hurts that he's still shaking from those secrets that were told. My car closed up too tight and the heart turned cold. And I went to San Diego, in the birthplace of the summer, and watched the ocean dance under the moon. And there was a girl I knew there, one more potential lover. I guess that something's gotta happen soon, cause I know I can't keep living in this dead or dying dream. And as I walked along the beach and drank with her, I thought about my true love, the one I really need. With eyes that burn so bright, they make me pure. They make me pure, they make me pure. I long to be with you. They make me pure, they make me pure. I long to be with you. Bright Eyes, June on the West Coast. E siamo arrivati a luglio. A luglio, restiamo negli Stati Uniti, ma torniamo un po' indietro nel tempo. Torniamo al 1965, quando Nina Simone pubblicava nel suo I Put a Spell on You la canzone July 3, appunto quella che abbiamo scelto per raccontare il mese di luglio. Mamma mia, senti qua. Perché parli sotto questa voce? Questa è un'altra canzone dedicata. Non la sento, ma so quale canzone c'è dedicata a un altro mese, June in Memphis, no? Lo dicevo, noi invece ci ascolteremo July 3, canzone che in realtà non racconta soltanto un mese, ma è un'esplorazione poetica dell'amore, cantato come viaggio attraverso le stagioni. La natura viene utilizzata come metafora per illustrare le varie fasi di una relazione. Il brano comincia con l'immagine di un seme di vero amore nel terreno autunnale, così scrive Nina Simone, a simboleggiare la semina iniziale dell'amore, un periodo di potenziale speranza. L'autunno, che spesso associamo al cambiamento, è associato anzi al cambiamento e alla preparazione, appunto prepara il terreno per qualcosa che deve ancora crescere e fiorire. Con il precedere della canzone, Nina Simone entra nell'inverno descrivendo il vero amore immerso nella bianca neve invernale, un verso che suggerisce un periodo in cui l'amore deve sopportare le fredde e dure condizioni prima di poter emergere. E poi arriva la primavera con i boccioli del vero amore nell'aria di aprile che torna tantissimo a simboleggiare i primi segni di crescita, la primavera, l'amore che sboccia, l'amore meraviglioso pieno di promesse e aspettative. Infine la canzone culmina nell'estate con il vero amore che sboccia affinché il mondo lo veda, quando appunto l'amore raggiunge, avrò detto 300.000 appunto, quando l'amore raggiunge il suo pieno potenziale, un potenziale vibrante, visibile a tutti. L'albero di luglio, July 3, si erge alto e fiero a testimonianza della natura duratura in continua evoluzione del vero amore. Ale, se mi guardi così, no, mi sento un po' fesso, provavo a raccontare Nina Simone. Avrei detto appunto tante volte, però guarda i peli dell'avambraccio. Vai, lei, Nina Simone, July 3. Seed in the autumn ground, true love seed in the autumn ground. When will it be found? True love deep in the winter white snow, true love deep in the winter white snow. How long will it take to grow? You know true love buds in the April air, the April air. Was there ever a bud so fair? True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms high upon blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms high upon. bellissima voce di Nina Simone che abbiamo scelto per raccontare luglio, ultimo brano per me. Siamo arrivati ai 31 giorni del re del calendario, ovvero agosto, la notte di San Lorenzo, tutto è banale, e Sua Maestà Ferragosto, tra le cose più belle che questo mese ci regala. Abbiamo scelto di celebrarlo con un brano tratto dal bellissimo album Far In del cantante americano di origine ecuadoregna Helado Negro, che dopo lo splendido This Is How You Smile nel 2019, che era arrivato dopo insomma parecchi anni di carriera, album che ha avuto un successo incredibile, non a caso questo Far In che lo seguirà uscì per la 4AD, e quest'album sembra proprio che dice: guarda, sono distrutto, perché il successo comunque bello tutto, però mi ha anche abbastanza stancato, la tournée, la mia vita com'è cambiata dopo di This Is How You Smile, immagino anche, spero per Helado Negro, anche il conto in banca, e su Far In infatti ci si rilassa, si è un po' più spensierati. Poi ovvio nell'immaginario comune agosto è anche naturalmente per sua natura associato alle vacanze, per chi beato lui e beato lei può permetterselo, però ovviamente di questo non possiamo incolpare il buon Helado Negro e la sua agosto. Che vado, Fabio, cos'è questo sorriso sotto i baffi? Dimmi. Niente, penso alle tue vacanze. Vabbè. Ma non lo dire in pubblico. Helado Negro e Busca Bulla, avevo dimenticato che fanno un fit all'interno di questa agosto. Egosto, che poi lo scrive all'italiano, lo pronuncia all'italo-americano. Siamo comunque arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine. Siamo riusciti a fare tardi, l'ultimo mese di scaletta è settembre è un mese ambivalente a due facce, un mese angosciante ma un mese anche rincuorante, un mese di rinascita, un mese di perdita per tanti motivi, un momento in cui si trovano nuove forze e dove ci si imbatte nelle solite vecchie debolezze. Capire settembre non è un'impresa semplice, ci hanno provato i Fine Before You Came, a cui gli hanno dedicato una canzone nel loro splendido album Ormai. Ma tu, buoni propositi, sei da settembre o da gennaio? Settembre. Sì? Assolutamente sì. Okay. Dicevo, era il 2012 l'anno di uscita dell'album che contiene questa Capire Settembre Ormai, così canta Jacopo Lietti. Se a ottobre non sono guarito tu porta pazienza, è soltanto questione di ore, non è niente rispetto a una vita in cui provo a capire per quale motivo settembre non fa per me. L'ho detta malissimo, ma la canzone è splendida. Noi ci sentiamo martedì prossimo alle 20, nuovo orario alle 20. Per questa stagione, salvo nuove uscite, facciamo, no? Facciamo nuove uscite, nuove uscite di basta, ottobre. Dopo di noi c'è Similia, vi ricordo che questo è il martedì musicale, soltanto insomma soprattutto nella parte serale c'è prima Likewise, Note Cose Città e poi Similia a seguire e Morfire, se non vado errato. Non vai errato, musica, non erri. Ce ne avete a bizzeffe di tutti i gusti tipi, vi resta solo che restare sintonizzati, Capire Settembre, Fine Before You Come, a martedì, came, buona serata, ciao a tutte, ciao a tutti.